sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Nel lento divagare una musica brutale ha incendiato la nostra passione. È ora che magari entri in merito alla sigla che ascoltate tutte le mattine. Poi vi daremo delle specifiche più esatte, chi canta, perché l'abbiamo scelta, perché un tango. Ma questa mattina in modo particolare mi piace essere accompagnato da un tango che forse è la più carnale e la più corporale delle danze, tanto da essersi meritata una messa all'indice quando cominciò a penetrare anche in Europa. Il tango è la danza dei sottintesi, è la danza dello strusciamento, è la danza che come suo schema essenziale prevede il contatto promiscuo delle parti sessuali dei due ballerini. Il tango è la mimica di un atto sessuale, è un fuggire, inseguire, una piccola e tenera violenza, un cedere e un risalire da parte della donna, un aggrovigliarsi. Insomma, il tango affascina proprio perché in realtà è il tripudio del corpo. Sembra che gli abiti dei ballerini siano l'orpello più fastidioso, perché sembra vedere due persone che si abbracciano in un abbraccio amoroso. Questa mattina di corpo vorrei parlare, ma con una accezione ancora più specifica di corpo femminile. Il corpo femminile sembra ormai la più liberata delle circostanze. Parlare di corpo femminile non crea più nessun fremito, nessuna passione. Ovunque siamo circondati da corpi femminili esposti. Ma io sono di un'idea che vorrei confrontare questa mattina con il mio pubblico. Tenete conto che il grande spartiacque tra visione della vita che confronta con anche violenza la visione dell'Occidente e la visione dell'Islam è proprio il corpo della donna. Qual è la differenza più percepibile? Che le donne islamiche sono coperte, che tutta la profonda, violenta, a volte anche poco comprensibile le nostre latitudini, violenza della visione della vita islamica e che prevede proprio una sorta di costante, attenta, meticolosa attenzione al fatto che le donne siano coperte. Più facile considerazione direbbe noi siamo più avanti perché noi donne le teniamo scoperte. Beh, io invece ho l'idea che anche noi occidentali abbiamo il nostro burqa, anche le nostre donne sono costrette a un mascheramento del proprio corpo, che è un mascheramento che corrisponde probabilmente anche alla massima nudità. Ma le donne sono costrette comunque a modificare il loro corpo, alterare il loro corpo, a creare attorno al loro corpo una sorta di corazza sintetica, costruire delle gabbie che strizzano, stringono, fanno svettare, modificano il corpo. Il corpo delle donne occidentali è un corpo in via di riprogettazione. Le donne occidentali stanno mascherando il proprio corpo attraverso una necessità che da una parte ha propaggine nella chirurgia estetica, da una parte ha propaggine dei modelli estetici irraggiungibili per tutte le donne. Insomma, oggi riflettiamo sul corpo delle donne, il burqa occidentale. Qui con noi c'è Miriam Leone, 23 Buonasera. Anni, catanese, incoronata Miss Italia, naturalmente lei è bellissima, ma so che è anche quasi laureata in lettere, no? Mancano due esami. Ah, benissimo, dunque naturalmente io parlo per invidia. Non è d'accordo con chi parla di una mercificazione sempre più eccessiva del corpo? Di noi donne, insomma, della donna. Assolutamente no, anzi credo di aver potuto dimostrare il contrario, perché il corpo in questo caso è stata espressione di passione, di pensiero, perché la donna gestisce il proprio corpo con la testa, quindi credo che sia andata così. In ogni occasione annuale di questa sorta di liturgia televisiva che va sempre più perdendo significato e perdendo sacralità, che è il concorso di Miss Italia, viene proclamato il fatto che le ragazze vanno apprezzate per la loro bellezza interiore. Il loro corpo che viene lì esposto in fondo è una circostanza accessoria. Quest'anno si è arrivato addirittura alla pruderia ipocrita di non mostrare i sederi, perché probabilmente il lato B delle Miss poteva evocare una versione, una visione vestita vessatoria di quelle ragazze che pur tuttavia stanno lì esponendo i propri corpi. Ecco, perché ci si sente comunque di dover giustificare l'esposizione del corpo con una parallela e contemporanea esposizione di facoltà intellettuali, che poi nel caso delle Miss sono sempre molto scarse. E riguardo al corpo che viene esposto nelle gallerie di Miss Italia, concorso storico, che perlomeno era nei suoi anni migliori caratterizzato dalla dimostrazione in fondo che la bellezza del corpo femminile è caratterizzata proprio dalla sua diversità, dalla sua poliedricità, dalla possibilità di essere tante e tante diverse, la donna veneta rispetto alla donna siciliana, la donna sarta, la donna emiliana, avevano delle caratteristiche fisiche date anche da stratificazioni territoriali, da attività che venivano compiute attraverso generazioni che modificavano comunque le fattezze corporee. Questa diversità e questa individuazione dei caratteri somatici, caratteristiche di una regione, dava un grande senso di varietà. Però già vinto una Miss Italia siciliana, Mirja Leone, che non assomiglia per niente a ciò che noi abbiamo in mente della donna siciliana, e la vincitrice morale, quella che tutti volevano che vincesse, che crea come ogni anno la polemica, è una friulana che assomiglia a una siciliana. Questo si mostra che non esiste più un modello caratteristico di corpo femminile che crea appunto una galleria di corpi diversi, quindi qualcosa di attrattivo. Esiste un modello unico, che è un modello stabilito da una bellezza artificiale, una bellezza che non esiste, qualcosa che è pensato nel pensatoio degli stilisti di moda e nei gabinetti del dottor Mabuse, dei chirurghi plastici. Un modello di bellezza artificiale diventare modello di bellezza per tutte le donne. 800 24 00 24, il tema è il corpo femminile. Il contributo cinico sulla carne in vendita. La nuova legge si multa la prostituzione in strada e pare gli operatori del settore si stiano organizzando per esercitare in appartamenti. Secondo te influenzerà sul mercato immobiliare? E visto che immagino aumenteranno anche i prezzi delle prestazioni, pensi che questo inciderà sulla spesa mensile delle famiglie italiane? (800) 24 00 24 per partecipare a questa riflessione sulla carne femminile. Sì, perché poi non ci interessa in questo momento verificare la corrispondente bellezza interiore. Parliamo di carne. Questo concetto che sembra ormai tolto e spogliato di ogni attrattiva, di ogni senso peccaminoso, di ogni morbosità, in realtà è stato probabilmente depotenziato. Abbiamo al telefono subito Katiuscia, una nostra ascoltatrice che ci segue anche su Facebook. Ricordo che anche in rete è possibile seguire questo programma. In questo momento ho 181 persone presenti che attraverso il social network di Facebook seguono la trasmissione, ma chi naturalmente sta a casa chiami l'800 24 00 24. Katiuscia, buongiorno. Buongiorno. Volevo, non so, affrontare il discorso parlando un po' di polpa, visto che l'argomento è la carne, perché mi sembra che in giro che polpa non ce ne sia molta. Mi viene in mente in scatola, cioè mi sembra di trovarla su una scatola, come in televisione ad esempio, quella di bassa leva del Postman Spettacolo che incornicia cosce e fianchi in movimento. Oppure mi viene in mente internet, in tutte le sue erotiche declinazioni virtuali, o mi vengono in mente i cartelloni pubblicitari, quelli consunti, coi brandelli di carta, di natiche penzolanti, però alla fine non si tocca nulla, non si tasta, io non vedo, non sento. Quindi mi faccia capire, Katiuscia, che è interessante. Lei quindi concorda in parte con l'idea che ho io, allucinando una sorta di burca occidentale, che è questa rappresentazione artificiale della donna che impedisce alla donna di essere apprezzata per la sua carne. Bravissimo, sto parlando di sessualità stigmatizzata. Il burca occidentale è la taglia 42, no? E questo lo sappiamo, più o meno si sa. E siamo un po' stufi di questa stigmatizzazione, cioè di vivere nel virtuale, nel declinato, nel vedere e giudicare e abituare anche l'occhio degli uomini a cercare la polpa, magari, che ne so, sulla Cristoforo Colombo, dove la polpa arriva da lontano e non è nemmeno di casa nostra, allora stigmatizzata anche quella. Quindi questa, diciamo che, tenendoci su paragoni che forse faranno rizzare i capelli a qualcuno, ma ciò non importa, come la moda del sushi ha alterato, o del kebab magari, che ha sostituito la pizza, ha alterato i nostri gusti alimentari, la carne esotica in parte fa parte della, scusatemi la cacofonia, del mascheramento e dello scarso interesse in realtà per la sincera, vecchia, antica carne femminile che tanto ci dette soddisfazione in gioventù. Non lo so, a me è capitato di incontrare uomini che sublimano poi in altre cose, o donne stesse, io per prima, ci mancherebbe altro. Si può definire, lei, Catuscio, così capiamo anche la tipologia dell'ascoltatrice, in qualche modo. Non le chiedo la sua età, ma più o meno a che categoria di donne appartiene? Ah, anche la classificazione non è molto semplice. Emancipata, italiana, trentenne, leggo, scrivo, recito, più o meno queste sono le cose. Ecco, lei trova che gli uomini apprezzino la carne femminile? Sì, devono forse solo riabituarcisi un po', nel senso che il modo in cui viene percepita oggi, il modo in cui viene trasmessa oggi dalla società, proprio tout court, forse non aiuta a un confronto genuino con quello che in modo proprio principiale è la carne, quella che si dà. Ecco perché la maggior parte degli animali in giro. Sì, guardi, mi scusi, la maggior parte delle mie amiche, che più o meno hanno la sua età, si lamentano tutte della stessa cosa, che gli uomini non sappiano più apprezzare le donne per quello che sono, al di là dei modelli, degli schemi, delle maschere che devono indossare. Le donne sono costrette a mascherarsi per essere notate. Ma quella poi è una scelta insomma soggettiva, non è che il problema è che appunto da un lato la sessualità è stigmatizzata, e per quanto si viva nel 2008 viviamo comunque in una società che mette dei tabù, li mette in maniera molto forte. Parlare di erotico, parlare di sessuale, se mi ci provo o se vado in giro a dire ah vabbè, la sessualità può anche essere presa come un momento di, che ne so, un momento conoscitivo. Guardo i cani, la prima cosa che fanno è annusarsi il sedere l'un l'altro. Da lì in poi hanno, come dire, abolito un po' quelli che sono gli istinti di libido e possono iniziare in qualche modo una relazione. Quindi lei dice, e la saluto perché c'è altre persone che ci stanno aspettando, che in realtà anche l'occultamento degli odori corporei, questa carne perde la sua freschezza perché deve essere coperta da strati di deodoranti, di creme, di oli. Insomma, è un po' difficile trovare il senso della carne in questo burka occidentale. Esiste una idealizzazione della carne, una ricostruzione fantasmatica della carne, simbolica della carne, che un grande regista italiano anticipò con una visione profetica nel 1980. Ti voglio cercare, trovarti con le mie mani. Cos'hai? Cos'è? Ti voglio cercare, trovarti. Fammi voltare, così. No, è troppo. Basta. Ti prego. Adesso non basta con l'orgasmo. Adesso volerei io orgasmo. 15 minuti di orgasmo. Voglio orgasmare. Vediamo che ci vuole. Ma io me lo mangio, sai. Questa è una scena del film La città delle donne. Marcello si trova nel Sancta Sanctorum del personaggio Cazzone, l'uomo che era collezionista di donne. Voi direte un vero innamorato della carne, un eroe del riconoscimento della dignità della donna denudata, di tutti gli orpelli, di tutte le mascherature, le corazze che costringe ad indossare la società. Era il 1980. Eppure Cazzone manteneva delle sue donne una sorta di galleria, ancora non esisteva internet, con i loro sospiri, per ricordarsi, bearsi e vivere felice attraverso il ricordo impalpabile di quei corpi. Una piccola notazione: l'attore Ettore Manni, che interpretò Cazzone, finì misteriosamente suicida durante la lavorazione del film, tanto che Fellini fu costretto a cambiare il finale. E quindi, come ci diceva l'ascoltatrice che ha parlato poco fa, oggi esiste un altro slittamento della percezione del corpo femminile, il corpo da guardare. La rete è il grande luogo dei corpi ricostruiti. In rete si organizzano delle eterne e interminabili gallerie di corpi trasformati in pixel, in piccoli punti luminosi. La carne si trasforma a un'altra mutazione. Il corpo femminile viene percepito attraverso la visione del corpo. Un corpo che si guarda può essere meraviglioso, perfetto, bellissimo, ma non ha odore, non si sente al tatto. Una vera esperta di corpi femminili trasformati in pixel è Persefone, che abbiamo al telefono. Buongiorno, Persefone. Ciao, buongiorno. Dunque, Persefone, in qualche maniera, come dice Pippo Baudo, posso dire che l'ho inventata io. Io la chiamai un paio di anni fa a raccontare la sua storia, crollò il mondo, ma lei divenne la star delle webcam girl. Persephone è una ragazza che, polilaureata, sta prendendo la seconda laurea, si mantiene agli studi facendo spogliarelli e spettacolini erotici a pagamento davanti a una webcam. Mi ricordo quando mi hai scoperto 2 anni or sono e abbiamo parlato tanto, abbiamo fatto interviste, foto. Si sei diventato un personaggio. Però, sono quindi... diventato un personaggio grazie a te. Mi fa piacere, spero che acquisterò meriti in paradiso per questa scoperta. Persephone, però a questo punto andiamo al punto. Tu conosci gli uomini, le persone che non entriamo in merito perché lo fai, ormai lo fai perché hai bisogno di soldi, ti diverte, non ti senti prostituta, il tuo ragazzo sa che fai questo lavoro, è ben contento perché in fondo stai prendendo la seconda laurea, già l'hai presa, non mi ricordo. No, ancora no, sì, ecco. La sto prendendo in scienze politiche. Ecco, io l'ho conosciuta nelle aule della Sapienza, una perfetta studentessa con una caratteristica fisica che la rende il culo più bello di tutta la rete, almeno lei dice così, sul quale vengono create delle odie, dei componimenti da parte dei suoi clienti. Mi parli un po' di questi uomini che passano tempo a seguire i corpi ricostruiti attraverso internet. Cosa ti chiedono? Come li vedi? Come parlano? Cosa fanno? Senza entrare nei particolari manuali, perché quello lo immagino. Certo, sono uomini a volte anche intelligenti, persone di qualsiasi tipo, dai ragazzi alle persone un pochino più mature, che cercano un po' di divertimento, cercano comunque di allontanarsi dalla loro realtà, dalla quale magari si sentono insoddisfatti, per rintanarsi in un piccolo angolo di web, alla ricerca di qualche pixel che manca alla loro vita. Cercano magari di svagarsi con noi ragazze delle webcam. Senti, dal tuo punto di vista, il corpo che tu offri loro è un corpo che non ti appartiene, non ti senti contaminata da questo concederti anche intimamente a delle persone che ti guardano soltanto? No, perché comunque è un'immagine, proprio come dicevi tu, sono una serie di pixel, sono milioni di pixel che vengono proiettati attraverso una webcam, non è la mia realtà, comunque non è il mio corpo reale, io la vedo come una virtualità, come un qualcosa di finto, di non ecco, vero. Senti, Persephone, per te non è il tuo corpo reale ciò che tu cedi, ma quello che loro coprono in realtà è qualcosa di reale, che dà loro emozione, eccitazione, è un surrogato di corpi che, e di carne che probabilmente non riescono, non sanno, non possono possedere. Certo, probabilmente non riescono ad averlo nella vita reale, o comunque nella vita reale lo hanno in modo diverso e vanno alla ricerca di qualche novità, però quello che io do sono attimi, comunque momenti di piacere, è una parvenza di realtà che però poi alla fine secondo me non è comunque realtà, potrebbe essere una chattata, potrebbe essere un'immagine, potrebbe essere un balletto che comunque al di là della webcam non va, è visualità. Siccome tu hai anche strumenti culturali poi per definire il fenomeno, non sei semplicemente una che si espone, fa lo spettacolino e finisce, trovi che secondo te sia diffusa proprio un senso della contemporaneità, questa passione dell'uomo per il corpo femminile artificiale, inesistente, non reale? Perché non apprezzano il corpo delle mogli, delle fidanzate, non si vanno a cercare donne piacevoli o non piacevoli o interessanti e invece sono costretti a fare questo tipo di lavoro? Perché probabilmente tanti uomini vanno alla ricerca di fantasie e sognano comunque un qualcosa che non esiste, un qualcosa che loro non hanno nella vita reale, o che magari preferiscono cercare nella virtualità per non magari tradire la propria moglie o comunque la propria donna nella realtà. Cercano un angolino di virtualità, forse per sentirsi meno in colpa o forse per scappare comunque dalla realtà di tutti i giorni. Grazie Persephone, mi confermi che esiste ancora un'idea del burka. Siamo liberati, non abbiamo tabù, siamo completamente spogliati da ogni desiderio di coprire le nostre donne, ma ci sentiamo di tradirle meno se le tradiamo con la testa e con donne che si mostrano virtualmente. Giulia, buongiorno. Sì, ciao Gianluca, volevo dire anch'io qualcosa se è possibile. Senti, io ho 53 anni adesso, per cui comincio a vedere nel mio corpo un po' di cambiamenti, anche se mi mantengo ancora abbastanza bene senza fare cose particolari, solo avendone un po' cura, diciamo. E questa cosa però non mi crea problemi assolutamente, anzi mi fa sentire più libera, mi fa sentire come più libera, sento il corpo più mio, e anche il fatto di coprirsi un po' di più al limite, non so, quest'anno ho comprato il costume intero per dire, no? Non mi fa sentire di aver perso qualcosa, vivo serenamente. Trovi diversità fra il tuo corpo di cinquantenne, piacevole, disponibile, si sente carnalmente percepibile, e i corpi artificiali che vedi esposti, modelli che di difficile raggiungimento? Sì, ma io preferisco il mio perché è vero e... Sto per chiudere, Giulia. Mi sentirei a disagio se fossi perfetta, perché ho 53 anni, sono già nonna da due. Se avessi un corpo perfetto mi sentirei quasi a disagio, mi sentirei ridicola. Un'aliena. Grazie Giulia, ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni della borsa. Melog 2.0. Ma che schifo, Steveline, che si sbattono tutte le sere per televisione. Ma qua stiamo perdendo tutti i valori. L'Italia comincia a fare schifo, veramente. Questa è una telefonata di protesta, ho trovato in segreteria, che però riassume un punto di vista altrettanto ipocrita, perché sembra che l'Italia, il nostro paese, che è sempre un paese ideale, inesistente, ognuno pensa che il proprio paese sia il luogo della massima abiezione, il luogo in cui c'è il crollo di tutti i valori, poi riuscire a elencarli e identificare quanto poi incarna chi ne denuncia il crollo gli stessi valori. Uno dei gli atteggiamenti più palesi, dire che schifo, il mondo delle veline, il mondo delle soubrette, il mondo delle ragazze che cercano la gloria televisiva, come se fosse qualcosa che non ci appartiene. Ma come ieri dicevo per i bulli a scuola, queste ragazze hanno famiglia, hanno madre, hanno padre, hanno zia, hanno nonni, hanno amici di scuola, hanno scuole di ballo, hanno chirurghi che le modificano, hanno persone che fanno pensare che in fondo l'esposizione di quel corpo coperto dal burka digitale, dal burka elettronico, dal burka siliconico, è qualcosa che in fondo le preserva dal logorio della vita. Che cosa le fa pensare che una donna, giovane o meno giovane, che scelga di fare la casalinga, e quindi la mamma, la moglie, la donna che ama e che cura la sua casa, che sia una poveraccia, una persona ridotta in uno stato di inferiorità? Poi esiste un'altra categoria di portatrici sane di carne femminile, le casalinghe, le donne che sembrano volersi definire per tutte le caratteristiche umane possibili, per tutte le virtù, per tutti i pregi, per tutte le nevrosi, meno quella di possedere un corpo. Ieri osai chiedere a un nostro ascoltatore se anche la moglie fosse contenta e soddisfatta di fare la casalinga, se fosse una sua scelta, oltre che una commodity molto proclamata dal marito. Sono insorte le casalinghe, richiamandomi all'ordine, dicendo che in fondo anche quello è un lavoro pieno di dignità, pieno di felicità, non lo metto in dubbio, ma vorrei sapere qualcosa di più anche sul corpo delle casalinghe, la carne della casalinga. E qual è oggi la percezione e il luogo in cui viene rappresentata e venerata e riconosciuta quanto essenza valida della nostra esistenza anche la carne della casalinga? Maila, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Io volevo intervenire sul fatto appunto delle donne oggi, che le ragazze, specialmente le giovani, guardando anche le miss, togliendo la tutte molto carine, niente da dire, però togliendo la testa, io ho visto un esercito di cloni, mi sembravano un risultato cibernetico, qualcosa di fantascientifico, niente di artistico. Io sono pittrice, per cui non prenderei mai però una di queste per modella, perché non mi darebbe nessuna ispirazione, perché non c'è femminilità, non c'è... Lei dipinge nudo, naturalmente. Prego? Lei dipinge nudo. Sì, molto. Molto, però insomma ho altri canoni di bellezza, pur vedendo che queste sono molto carine, graziose, però il fatto che siano tutte uguali, tutte con queste cosce vuote al centro, tutte non c'è femminilità, è solo una costruzione, secondo me. Non so neanche come facciano a venire oggi tutte uguali così, ecco, forse non si sforzano neanche, nascono così, ma non so come mai. Ecco Maila, lei dove cerca le sue modelle? Io sto parlando della carne della casalinga. La casalinga avrà una sua carne, avrà una sua piacevolezza. Io, per fortuna, sono rotondeggiante nei punti giusti, per cui sono già un'automodella, diciamo. E per fortuna, però, insomma, non mi ha mai dato fastidio questa carne, perché, anzi, ho avuto molti ammiratori e ce li ho tuttora, proprio perché forse ho questa carne che in altri non trovano. Ecco perché, insomma, non mi ha mai dato fastidio. Pur invecchiando, cerco di mantenermi, però, insomma, non cerco mai, ecco, di modificare o di togliere, ecco, perché chiaramente... Secondo lei stanno cambiando proprio le proporzioni dei modelli estetici, in quanto artista, in quanto pittrice? Però io vedo che quelle rotonde, appunto, giusto, insomma, vengono sempre guardate e scelte. Quando siamo magari in un gruppo o qualcosa, non è che vadano a cercare quelle ossute, ma vanno a cercare quelle come me. Cioè la vera carne che finisce allo spiedo è quella di una volta, vorrebbe dire? Io penso di sì, non dico allo spiedo, chiaramente. In padella, comunque nel senso che carne da gustare, perché io non vorrei anche... Sì, ci sia femminilità, ecco, nelle curve. Ecco, vorrei anche togliermi questa sorta di difficoltà a dire che la carne piacevole è fatta proprio per un tripudio, per un piacere, per una reciproca soddisfazione. La carne sintetica, se perfetta, anche in proporzioni studiate da un computer, in realtà è carne indigeribile, finta, è come i polli di plastica nei ristoranti cinesi, che devono far vedere qual è la merce che si vende all'interno, ma non si possono assaggiare. Sì, veramente, però insomma di artistico, ecco, non ci sarebbero più, ecco, delle modelle da prendere in considerazione, perché non, assolutamente, non c'è armonia, ecco, non c'è armonia in quelle linee, veramente, vedo insomma molto uniformità, come anche nella moda e in tante altre cose, come i capelli, tutte uguali, tutte lisci, tutte lunghi, per me insomma... Beh, l'estation ha modificato notevolmente la dinamica e la geometria delle capigliature. La saluto e grazie, e Franco da Rieti, finalmente un uomo. Buongiorno Franco. Oggi parliamo di carne femminile e grazie a Dio vedo che intervengono le donne, gli uomini stanno un attimo un passo indietro. Io volevo sottolineare l'aspetto nefasto del ruolo che hanno avuto gli stilisti di moda nel modellare il corpo femminile, cioè essendo anche poi gli stilisti in prevalenza omosessuali, non è che abbiano contro qualcosa. No, è un dato di fatto, noi non mica stiamo discriminandoli. Hanno fatto mascolinizzare la donna. Gli hanno eliminato i fianchi, il seno, eccetera, anche perché magari dovendo indossare un vestito poi non è che te lo mette mostrando. Non è un caso che chi pensa e definisce le linee estetiche dei corpi femminili poi in realtà, per sue scelte assolutamente non riprovevoli, poi non ha quella pulsione, quel desiderio, quell'ammirazione proprio per il corpo femminile in quanto carne. Non è una stampella la donna, poi parleremo anche degli uomini, oggi vogliamo però parlare delle donne. Gli uomini belli mascelluti, muscolosi, ovviamente perché ne esalta l'aspetto maschio, diciamo, le donne invece ce le rendono androgene, con il risultato che hanno imposto, cioè che ci troviamo appunto delle mamme che vogliono non avere i fianchi, essere come delle adolescenti e niente, secondo me è una cosa nefasta, preferisco una quarantenne o una ventenne io. Quindi anche lei conviene che in fondo stiamo lentamente definendo che anche noi abbiamo il nostro burka e la pancia scoperta anche a 50 anni, ai fianchi necessariamente stretti, è forzare il fisico in modelli estetici che la natura in realtà non sempre ci fornisce. È naturale proprio, cioè preferisco appunto qualche filo di ciccia in più, ma più naturale, più realistico, anche perché poi la donna comunque deve avere delle forme. Una donna piatta per me non vabbè, questo sui gusti, c'è, cioè, che questo non può piacere a un uomo, non vorrei discriminare, perché sì, ci sono anche donne che non hanno forme, possono essere per questo non essere disprezzate. Sì, anche l'eccezione, io sto parlando di conformazione fisica che segue un progetto che è così dalla nascita, e invece una conformazione fisica che segue un modello che non esiste in natura. Non è detto che la natura sia per forza un modello che bisogna cocciutamente perseguire, ma in realtà oggi si va dal chirurgo estetico con una fotografia magari di una diva del cinema che in realtà non era così come mamma l'ha fatta. La saluto e chiamo a questo punto, qualcuno dovrebbe saperne di più su questo problema, Gabriella Larovare, che è un medico estetico. Gabriella, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Dunque, il tuo lavoro è sottoporre il corpo femminile a delle stressanti modifiche perché possa rispondere a questi modelli estetici? Sì, in generale negli ambulatori di medicina estetica vengono donne che hanno bisogno di, in generale, di sentirsi bene nella propria pelle, che poi è espressione di quello che viene visto in televisione. Cioè in realtà il modello femminile di donna è un modello, come hai detto te, tutto particolare, esiste nella realtà, ma quantomeno non è poi quello che gli uomini chiedono. Ecco, cioè, parlami della tua esperienza, cosa chiedono soprattutto oggi le donne, con quale foto vengono in mano e quale modifica vogliono fare? Cioè lasceranno poi qualche etto di carne, se non più nel tuo ambulatorio quando sono uscite? Sì. No, allora, le cose che vengono chieste essenzialmente togliere le rughe, quindi prolungare un aspetto di gioventù il più a lungo possibile, e questa è una delle richieste generali. Poi si può dire che gli ambulatori di medicina estetica possono essere divisi in due gruppi, cioè le ragazze, per le quali naturalmente il problema principale è il corpo, quindi la cellulite, e le donne dai 30 anni che possono ancora essere afflitte da problemi di cellulite, di capillari, quant'è, ma in realtà già guardano, perché magari non hanno niente, ma già guardano all'invecchiamento, per cui arrivano e chiedono qualcosa che possa, allora, Gabriella, prevenire. Fermiamoci un secondo qua, che devo mandare un attimo la pausa. Ci sentiamo e rimani in linea anche dopo questa pausa, perché gli strumenti e la tabella delle modificazioni corporee che sogna ogni donna mi sembra interessante per concludere questa trasmissione sul nostro burka occidentale. A tra un istante. Melog 2.0. Se dovessero cambiare qualche parte del corpo, quale parte del corpo cambierebbero e quale parte gli piacerebbe fare in un film? Siamo un po' troppo giovani per i lifting, però io forse rifarei il naso. Il naso? Tu? Sicuramente il seno. Beh, no, niente. Per ora anch'io niente, poi magari qualche ritocchino tipo al seno. Non... Io mi farei un'operazione ai piedi, perché ho i piedi più brutti che abbia mai visto. Io niente, perché penso che potrei aver molta paura. No, io non sono contenta così. Io sono contraria alla chirurgia estetica, ma non si può mai dire. Questa è una delle domande che erano state poste alle Miss: rifareste qualcosa del vostro corpo? E naturalmente hanno motteggiato all'uso, forse più in là, chissà, io mai, non mi toccherei mai. Gabriella La Rovere, medico estetico, lei ha dato un'occhiata a Miss Italia? No, devo dire quest'anno ho evitato accuratamente, mi sono scordata, ma per questo devo dire non mi sono dispiaciuta. Le sembra plausibile che non siano state toccate dal bisturi quelle ragazze? No, che assolutamente falso, diciamo che quello che viene detto non corrisponde alla realtà, perché vengono e già prima è capitato a me personalmente, qualcuna che partecipava, poi naturalmente ha fatto le selezioni, doveva andare a queste selezioni Miss Italia e veniva per modificare qualcosa delle gambe o piuttosto del viso, questo capita tranquillamente. Ma perché oggi le donne, le ragazze hanno tutte quelle palle al posto degli zigomi? Non avevo mai viste perché nella mia lunga vita. C'è questo concetto il concetto è giusto, nel senso che un viso triangolare con uno zigomo è importante, è un viso che sicuramente non conoscerà il cedimento strutturale dai 40-50 anni in su, ma da qui a mettersi queste cose naturalmente. Cosa sono delle palline da golf che si mettono sotto pelle? Perché... Allora possono essere delle vere e proprie protesi, in questo caso è un intervento di chirurgia estetica vera e propria, oppure si inietta un materiale compatibile, di solito acido ialuronico, che ha una durata di circa un anno e che è rinnovabile, quindi come l'energia rinnovabile. Gabriella, senza fare nomi, se no non ho voglia di iniziare con le querele soltanto dopo una settimana. Ma nello star system più visibile, televisivo, cinematografico, telegiornalistico, è molto preponderante l'uso di questi interventi con il suo occhio clinico? Sì, assolutamente cioè, sì. Cioè, quasi tutte? Sì, diciamo quasi tutte. Poche sono le persone che sono al naturale e poi che secondo me mantengono una bellezza, perché la bellezza è al di là di ogni, cioè io dico sempre anche alle mie pazienti che ogni età ha la sua bellezza, uno può fare qualsiasi cosa per mantenersi bene senza stravolgere quello che è il passare degli anni, perché ognuno di noi ha vissuto una vita, cioè anch'io ho avuto 20 anni, ma non per questo voglio dire devo per forza fare di tutto per essere poi ridicola, perché poi sarei una cinquantenne che mima a fare una ventenne, insomma, via. Senta, ce n'è una, e possiamo dire il nome, che assolutamente non si è rifatta di tutte le persone che normalmente si vedono in televisione? Riesce a fare un nome di una che sicuramente non è rifatta, così almeno glorifichiamo chi... No, forse no, e posso dire magari, diciamo, attrici che non hanno fatto niente ma che non si vedono frequentemente in televisione, perché in realtà nel momento in cui si va in televisione bisogna sempre sottostare poi a delle regole, no? Telegiornaliste, conduttrici di telegiornale che sicuramente non si sono rifatte, saprebbe dirmene una? No, potrei farmi dei nemici. No, che non si è rifatta. Ah, che no, ma è uguale, perché in realtà tutte ne dicono che non si sono rifatte. No, ma che lei guardando con l'occhio del medico capisce, dice, un volto vergine da bisturi. In una situazione posso dire che, per esempio, ho visto attrici in televisione che sicuramente non avevano fatto niente. Ho visto una Monica Guerritore splendida e fantastica, ho visto una Gloria Guida altrettanto bella, cioè, ecco, questi sono esempi di un passare degli anni, ma la donna rimane bella, perché è anche una donna femminile, e questo nessuna chirurgia estetica può mettere in un corpo. Grazie, la saluto. Andreina, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dare, ascoltandoti, un'altra visione forse del burka. Per noi cinquantenni, più di 50, il burka è il nostro corpo che negli anni è mutato e che non è più guardato, soppesato, confrontato. Siamo comunque libere, e anche con i nostri compagni forse possiamo avere un rapporto diverso con quelli, diciamo, che non si fanno prendere e che appunto non frequentano siti come quello della studentessa in cerca di fantasie, ma con quelli che, diciamo, possono, non sono più presa dall'ossessione della prestazione fisica, vale a dire essere giovani a tutti i costi è una grande liberazione. Noi che non siamo più rappresentate in televisione perché siamo troppo giovane per fare la pubblicità alla candeggina e siamo troppo vecchie. Quale dentiere? Per correre e non so, mangiarci o prendere il dentifricio, la crema o l'integratore alimentare o quant'altro. È bello che si passa direttamente dalle pubblicità per i profumi, per i vestiti, biancheria intima, accessori meravigliosi, odoranti, poi a quelle dei pannoloni per incontinenti e per dentiere e via dicendo. Non esiste una fase intermedia in cui è rappresentata comunque una caratteristica fisica della donna in un periodo come quello che lei sta attraversando. Quindi vorrebbe dire che in fondo 50 anni è il momento della massima liberazione, uno non ha più bisogno del burka. Sicuramente. È un momento in cui uno può anche selezionare e capire chi è degno di apprezzare. Infatti, anche gli amici, le conoscenze, i nostri compagni, i mariti vengono messi alla prova da questa cosa, sicuramente. È un bel momento? Sì, per me è un bel momento. Io poi sono felice, ti saluto, sono la tua gruppi contadina, quella nella stalla. Ah, mia gruppi contadina. Sì, io comunque sono felice, diciamo che... Quindi ancora ti capita... Con il lavoro non mi soppesa in questo senso. Ti capita di essere buttata nel pagliaio come usa nelle campagne? Vabbè, ma con la maglietta, quella che io ogni tanto indosso, ho avuto dei successi notevoli. Io ancora la mattina non ho osato parlare della maglietta La Passione perché ancora ho qualche scatolone da parte, ma riprenderemo questo problema, però mi fa piacere pensare che nelle campagne ancora esiste una sana idea della bistecca femminile, e con questo mi sono condannato a vita, e che è qualcosa da apprezzare, è qualcosa che ancora ha bisogno di estimatori e cerca estimatori. Diego, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Lei è un ottimista? Lei pensa che forse il corpo femminile sia sempre esistito e che ci sia qualcosa che corrisponda al vero corpo femminile e che potremmo forse un giorno raggiungere ritornando alla campagna, alla bistecca della donna come l'ha intesa adesso? Lo dico, guardi, mi permette, lo dico con grande rispetto e con grande venerazione, non mi si fraintenda. Non è una questione morale. Spero che si capisca. È una questione relativa al fatto che probabilmente invece il corpo femminile non è mai esistito, nel senso che è sempre stata una rappresentazione fin dalla preistoria, la Venere rappresentata con i fianchi in quel modo. Oddio, Diego, io qualche lontano ricordo ce l'ho, probabilmente da qualche parte esiste o è esistito, mi sembra. Esiste nel nel momento stesso in cui lei stesso o il maschio stesso lo crea, e là dove la donna pensa come il maschio si crea il suo burka per essere nel pensiero del maschio, perciò la donna pensa in quel frangente, ma là dove la donna è donna non pensa più perché è abbandono, perciò non è neanche più corpo, è qualcosa che va al di là, è soltanto l'uomo che lo crea questo corpo, e da sempre il corpo della donna è rimasto solo nell'immaginario dell'uomo, e là dove la donna si immagina, immagina come l'uomo, perciò lei è ciò che l'uomo pensa che lei debba essere, e d'altronde il burka non è altro che questo, è un modo per far sì che la donna sia desiderabile, al di là della visione, laddove c'è invece qualcosa che lo copre, o oltre la visione, laddove invece tutto quanto è talmente scoperto che la visione non basta più, perché è sempre oltre la visione, perciò è sempre coperto, ma perché sotto c'è nulla, non c'è nulla in quanto c'è il punto finale di un desiderio che non si potrà raggiungere. Però grazie a Dio, grazie a questa meravigliosa, suggestiva e complicata alchimia che lei va descrivendo con un fare così poetico e quindi con una profonda immagino e personale esperienza, si cela la chiave misteriosa per cui ancora l'umanità esiste. Grazie a tutti, 800 24 0024, 800 28 11 11 perché vuoi chiamare la segreteria telefonica, la replica questa sera alle 22 e noi ci sentiamo domani. Radio 24. La passione si sente. Melog 2.0.